Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Beh, probabilmente sognarla così era difficile. È stato il mio battesimo in Champions League. Spero che questo battesimo sia anche fortunato per la mia crescita da allenatore. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sì, eh. Devo cantare? No, no. Beh, hai cantato in campo, Ciro. Immobile, il tiro, rete! Immobile, Lazio subito in vantaggio. Dopo tanti anni riportare questa società, questa maglia in Champions, c'era quell'emozione, quel sapore in più, no? Di scendere in campo per la competizione più importante. Il cross di Cuadrado, Morata! È doppietta per Alvaro Morata! È bello, sì, giocare la Champions con questa maglietta, perché l'ultima che ho giocato con questa maglia di Champions è stata una roba che ho in mente ancora. Noi vogliamo arrivare fino alla fine e portiamo i tre punti a casa, è fondamentale per iniziare bene la Champions. Buon pomeriggio a tutti, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, voi al telefono 800 24 00 24, numero verde, o con WhatsApp vocali 349 238 6666 per dire la vostra. Dopo un radio tweet di Pierluigi Pardo, che ormai insomma metterò all'asta perché ho già diverse richieste di giocatori e allenatori per un suo radio tweet, dato che ieri ha mandato in gol Immobile. Allora, stasera faccio Luca. Allora, ho cambio. Vai con quello. Voglio portare bene a Inter, tra l'altro, domani a Milan, Roma e Napoli. Quindi, oggi Lukaku 280 gol. Che no, volevo fare una cosa su Morata e Immobile, ma tanto ne parliamo tutta la puntata. Ma volevo fare anche una cosa su Ren. Perché ho visto su Ren, ho visto insomma, ho visto un sacco di gente allo stadio e mi fa infinitamente piacere. Infinitamente piacere, cioè, l'istinto, dai, la faccio su questo. L'istinto è assolutamente positivo, come quando ho visto le scene l'altro giorno fuori dal derby, a costo di sembrare un romantico sentimentale, ma insomma, a me vedere che c'è il derby e i ragazzi vanno allo stadio, curva nord, curva sud, per abbracciare la squadra è una cosa che non può non piacermi, perché è la vita, è come vedi uno che è innamorato, è come vedi uno che si emoziona e si commuove mentre canta una canzone, è come vedi uno che piange di gioia di fronte a suo figlio, cioè è un istinto naturale. Sono fatta un po' meno drammatica, ma no, ma parliamo di questo, Pierluigi, noi viviamo per parlare di emozioni, mica di altre robe. Poi c'è la componente nazionale. Allora, io ho visto Ren, uno stadio mezzo aperto, che per carità un mese fa io dicevo che era una cosa giusta anche in Italia, ma in un mese purtroppo cambiano molto, mi pare, troppo, no? Quindi vedere che un paese che ha più contagi tutti i giorni di noi apre uno stadio, e perché lo stadio lo puoi aprire, a patto però che la fruizione dell'evento sia una fruizione, tra virgolette, covid free, contagio free. Beh, tu lo puoi aprire. D'altra parte anche ieri a Kiev, Pier. Ma certo, uno stadio a 50.000 posti, 10.000 persone, 15.000 persone ci possono stare, a patto che gli accessi siano accessi che consentano separazione, che la gente abbia la mascherina e che si controlli e non si abbracci senza mascherina dopo i gol. E questo è il problema vero, che il calcio chiaramente smuove delle passioni meravigliose, che però possono creare dei problemi, ovviamente, perché certamente, insomma, certamente, voglia di tracciare un tuo amico per un gol al derby, no? In quel momento devi avere la lucidità di ricordarti che insomma, non possiamo dimenticare, potrebbe essere rischioso. Non possiamo dimenticare le scene fuori dallo stadio di esultanza e di emozione in quel periodo dannato a Valencia come a Parigi. Lukaku, il Papu Gomez, domani Osimhen, Dzeko e Ibra. Strano che non lo dedichi a Eriksen, che pare giocherà titolare. Sì, vabbè, su Eriksen, a Eriksen ho dedicato un sacco di pensieri, nel senso, no, ma non lo esageriamo. Però, insomma, è una grande occasione stasera, è una grande occasione, io sai come la penso. Penso che, adesso sto preparando tra l'altro la partita per stasera, perché non è 5, è arrivato a 596 presenze in carriera. Cioè, stiamo parlando di un 28enne, una roba del 28 anni e mezzo, e uno ha fatto 600 presenze in carriera, quindi stiamo parlando di un giocatore. Detto questo, poi Antonio Conte non ha soltanto il dovere, ha proprio il diritto di scegliere con la sua testa e anche di considerarlo un corpo estraneo in certi momenti. Certo. E Eriksen pure con l'Inter si deve una svegliata. Senti, ma poi torniamo su tutti i temi. Dimmi una cosa, poi parliamo di tutti i temi della serata. Tra l'altro avremo Paolo Condò, avremo Filippo Maria Ricci, non so in quale ordine, ma saranno con noi gli ascoltatori, eccetera. Però ne approfitto, cavalcando quest'onda della preparazione della partita, com'è Gladbach? Borussia Mönchengladbach, prima ho spiegato ad Alessio Maurizi nel corso del GR, non riusciva a pronunciare, ho detto studia che domani ti interrogo. Beh, tra l'altro, insomma, Borussia Mönchengladbach Inter ricorda la storia della mattina, qualche 49 anni fa. Sì. Ecco, forse vedi, volevo il vero tweet del giorno è per Peppino Prisco, che è stato un protagonista un po' ristudiato, anche se in realtà la conoscevo, quindi è stato un ripassare quella storia di una partita di 49 anni fa. La famosa partita con Boninsegna che venne colpito dalla lattina, con Netzer che la lattina la spostò da un'altra parte per non farla trovare, un tifoso del Toro pare che venne fuori, che dopo un mesetto si dichiarò, che diede un'altra lattina simile a Mazzola che la consegnò all'arbitro, segue tutta la ringa dell'avvocato Prisco, e poi la partita venne Netzer che si presentò nella commissione giudicante dell'UEFA. Considerate che quel periodo lì non c'era proprio casistica, non c'era giurisprudenza, quindi non sapevano veramente che fare con questa situazione qui. Alla fine quella partita, che era finita 7-1 per il Borussia, venne annullata, ci fu quindi la doppia partita, si giocò poi prima a San Siro, poi in campo neutro a Berlino, dove Bordon, un giovanissimo Bordon, parò un rigore e fece dei miracoli. L'Inter fece tantissima strada, poi perse in finale contro l'Ajax, ma insomma la famosa lattina di Mönchengladbach è un pensiero a Peppino Prisco, lo mandiamo, amato dagli interisti, ma credo amato, rispettato nel solco dell'ironia più sana anche non da tutti i rivali. Ma non c'è dubbio. Tanto ci sono, ti avverto, ci sono prove tecniche di conferenza stampa per Gattuso, che se parlerà lo ascolteremo alla vigilia della forse partita con la Z Akmar, perché c'è un punto che dovrebbe essere domani 18:55, però forse, perché come sapete quest'altro tema, problemi seri di Covid per la Z Alkmaar, che deve andare a Napoli, anche lì c'è la celeberrima SL partenopea che dovrà dichiararsi sullo svolgimento regolare di questa partita. Altre storie, altro fino, avevamo modo di parlarne, non abbiamo ancora detto una parola sulla Juventus e sulla Lazio, ma tranquilli che lo faremo, perché c'è Marco da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao Carlo, ciao Pierluigi. Ciao. Due ciao. Considerazioni velocissime sul vostro mestiere, sul giornalismo. La prima, dalla vostra parte, cioè siete veramente moderati, e parlate in maniera chiara, non mai un tono troppo alto, ed è una cosa che veramente è piacevole da sentire da parte vostra. Addirittura ieri Pierluigi, oltre a portare bene alle squadre italiane, ha detto alla Juve: giocate un po' easy, e l'ha preso in pieno il buon sì, lo so, l'altra cosa invece sabato rivendico il Lodopardo di... Marco, rivendico il Lodopardo che ieri sera ha trovato conferma in campo, poi ne parliamo, dica. Invece sabato dopo la partita di Crotone, dopo le nazionali e tutto, allora ho sentito da parte di un'emittente televisiva che trasmette poi le partite un giornalista dire un dilettante allo sbaraglio, parlando di Pirlo. Dall'altra parte un centravanti che ha segnato, ha fatto assist, ha preso un palo, voto 4, ma in campo non c'era Dzeko e non c'era, cioè un po' di aspettare, no? Cioè domanda, e sono i giornalisti questi. guarda, non lo so e non mi permetto di giudicare. Io ti dico, perché ne parlavo l'altro giorno del corso allo Yulma, ai ragazzi, che esistono vari tipi di giornalismo. C'è chi ogni giorno, ma non è che c'è un giusto o uno sbagliato, però c'è chi ogni giorno ha necessità di dover vendere, di dover fare notizia, di dover... di doversi prendere una ribalta, e c'è chi questa fortuna, questa condizione non la vive. Io quando parlo di me stesso, ma anche lo stesso discorso riguardi Carlo, poi magari c'ho il problema opposto, che magari sono troppo prudente, e quindi, per carità, chi mi vuole accusare di essere democristiano, gli do ragione a prescindere. Però io nella mia vita non ho mai avuto, non so se sia una fortuna o una sfortuna, però non ho mai avuto il problema di dover dare una notizia scandalistica tutti i giorni o una notizia clamorosa tutti i giorni, perché se no non facevo il mio lavoro. Cioè, io vedo quello che vedo, poi magari mi sbaglio delle valutazioni, sbaglierò mille volte. Il calcio poi da questo punto di vista, ragazzi, il calcio è una roba che ogni giorno ti smentisce. La Juve di ieri non è la Juve di Crotone, c'è un passo avanti significativo. Ma chiaro, il passo avanti significativo che ha fatto per prima cosa Pirlo nello scegliere dei giocatori un po' più abituati, diciamo così, a portare quella maglia, insomma, una formazione più razionale. Sì, questo sei visto, giocato dai. Diversamente al di là delle scelte di Pirlo, ma la non al di là, non la tanto Lazio al di là. La Lazio di ieri non era la Lazio di Marassi, con tutto il rispetto per la Sampdoria che ha fatto una partita pazzesca, però la Lazio di ieri, ovviamente, al di là del ritorno di Immobile, ha fatto una partita diversa. Quindi il calcio da questo punto di vista è perfetto per farci fare figuracce continuamente ed è il suo bello. E quella cosa lì è che io ti dico sinceramente, mi sento fortunato in questo, non ho mai avuto la cosa di dover urlare o dire chissà che, ma lo ritengo una per come sono io, per il carattere che ho io, una fortuna. No, ma anche perché noi se non ci divertiamo ci passa la voglia, anche a Filippo Maria Ricci passa la voglia se non si diverte. È verissimo, assolutamente condivido tutto quello che ha detto. Beh, cioè, avete fatto degli esempi, anche Immobile di ieri sera non è l'Immobile della nazionale. Sì, posso dirti però. Sì, qui ho il lodo Immobile. Io qui ho il lodo Immobile. che forse vale più del lodo Pirlo. Cioè, Immobile, ragazzi, è all'inizio di una nuova dimensione. Perché in questi anni la Champions non l'ha mai fatta, o l'ha fatta realisticamente. Quindi l'Immobile di questi anni di Lazio, che è uno che ha fatto una media di 30 gol a stagione, 30 gol a stagione, 3-0, ok. Però è chiaro, è ovvio che tu fai 30 gol a stagione, li fai contro nel campionato, della ripetitività del campionato, con una squadra che non va mai fino a quest'anno in Champions League, e sicuramente questi gol un po' si perdono, no? Certo, ma questione si pesano, non si contano okay. E basta. Questo è l'anno della verità per Immobile, no, è cominciato molto però bene. Mi fai dire una cosa, mio amico Ricci, no, che io fossi a Lazio vorrei giocare quasi ogni domenica contro il Borussia Mönchengladbach, che è una squadra molto spagnola, molto guardioliana, che si innamora un sacco di se stessa e del suo talento e va sempre in orizzontale tenendo la palla, poi arriva la Lazio che la impallina con Immobile. Filippo, sì, l'abbiamo visto tante volte e speriamo di rivederlo, perché noi tendiamo più ad essere, no, noi come italiani, dall'altra parte della barricata, quindi ci fa piacere, va benissimo così, quindi questo è. Però insomma prima sentivo anche a proposito di questo. Ieri ho visto, io ovviamente prima di guardarmi il Barcellona, ho visto la Juve, no? E l'ho vista nella TV spagnola, no? E qua assistevano un sacco sul fatto che è Pirlo, ma anche un Pirlo. E mi piaceva molto, era una visione molto spagnola, no? Della Juventus, e mi sono divertito abbastanza, perché poi ecco, alla fine ecco, ognuno ha le sue come si vuole, la sua, il suo modo di interpretare questo gioco, no? Per tornare un po' al discorso che faceva prima Pierre, che condivido appieno, senza bisogno di dover strillare o chissà che cosa, vedi il gioco, dici quello che pensi e basta. Che impressione ti ha fatto la Juve nel combinato disposto col Barcellona che hai visto dopo? Ma diciamo in crescita, non ancora molto imperfetta, E poi mi è venuta sì una mezza commozione per Morata, perché io, che a me piace un sacco, lo considero veramente un grandissimo giocatore, che però ha lotta contro se stesso, cioè, perché è un giocatore che se stesse più tranquillo, se avesse più fiducia in se stesso, per me potrebbe essere davvero uno degli attaccanti più forti del mondo. Adesso vediamo se a Torino si ritrova, no? È un percorso, anche lui si deve ritrovare, la Juventus deve crescere, sì. Voglio dire, ieri Pirlo era al debutto in Champions, certo, ma in questo, guarda, non voglio sottolineare sottolinearlo un'altra volta, però insomma, ieri Pirlo, dando retta a Pardo, chiaramente ha messo comunque Quadrado difesa 4, Quadrado sulla linea di terzini. Ieri sì, buonanotte. Ieri la Juve ha dato una dimostrazione enorme, secondo me, per quella che è la Juve di oggi, che quindi è una Juve ancora provvisoria, che si sta facendo, che si sta costruendo, per carità, non ha fatto niente, e sul valore della Dinamo Kiev ovviamente si possono anche avere dei dubbi, però non è scontato andare lì, giocare con questa sicurezza, vincere, esatto, così bene, esatto, cioè è una cosa positiva, esatto. È come quando dicono l'Italia di Mancini ha vinto tante partite con squadre deboli, ho capito, ma quelle erano, tanto vai e vinci. Poi devi anche farle diventare deboli tu, devi essere bravo anche a farle diventare deboli tu. Il Milan delle prime sei partite, però intanto devi vincerle tutte. Ieri fuori casa, in una situazione non semplice, con un po' di pressione addosso dopo il pareggio di Crotone, la Juve secondo me ha fatto prestazione, e l'ha fatta senza Cristiano Ronaldo, l'ha fatta con Chiellini che si è fatto male subito, senza Alessandro, senza De Ligt, comunque è oggettiva questa cosa qui. No, la somma della rosa, del talento della Juve recuperando tutti, non può essere sottovalutata. Poi io quest'anno, l'ho detto, penso che ci sia un campionato. Adesso, e io penso che non ci sarà una dittatura juventina come è successo in alcune di queste stagioni. Assolutamente, per quanto le previsioni che si possono fare valgono come i giornali di ieri, cioè pochissimo, dato che è impossibile leggere e il campionato e la Champions. Una Champions in cui Filippo, peraltro, dato politico, le spagnole dopo un millennio non le metto in primissima fascia, a parte che non so chi metterci in primissima fascia, però non ce le metto. Questo è un tema. Un altro tema legato alla Juventus è che il tuo amico Ronaldo, con lo schieramento di ieri, però non può giocare, perché dovrebbe giocare prima punta, o se no dove lo metti? Quindi è comunque una squadra in itinere, in divenire. Sicuramente, però ecco, vediamo che idea ha Pirlo, lo sapeva prima, lo sa adesso, lo sa, diciamo, è uno che ha non so, vede benissimo il calcio, è sempre stata la sua miglior qualità, per cui avrà le sue idee, e vediamo quando tornerà Ronaldo dove lo sistemerà. Io sono di quelli che tendono a non considerare mai Ronaldo un problema. No, ma non che è un problema, è che, ma no, ci mancherebbe altro, è che sono ieri 4-4-1-1 e lo so, vabbè, 1-1 Ronaldo centralmente non vuole fare, ci sarà Ronaldo, sì. Non importa, magari nemmeno in difesa, però Ronaldo alla fine glielo trovi il posto, perché poi comunque Ronaldo c'ha una cosa, che vuole giocare e vuole vincere, e ha un'idea anche lui molto chiara, cioè lo vede il calcio, per cui chiaro, poi si può discutere, però io sono sicuro, e per me questa è la forza di Pirlo, che poi è stata la forza di Zidane, che Pirlo e Ronaldo sapranno trovarsi, cioè sapranno intendersi, e lì adesso vediamo. Adesso se tu mi dici no, ma dove lo mettiamo, io non te lo so dire, però no, semplicemente nella Juventus nemmeno... di ieri sera, cioè io mi limito a quella di, certo, ieri. Però ogni partita è diversa, cioè bisogna vedere. Io anche ieri sera, magari potrà giocare da prima punta, potranno cambiare ancora un po' il sistema. Insomma, però è un tale valore aggiunto, cioè sia a livello di qualità, di classe, di gol e di autorità e di preoccupazione per gli avversari, che insomma in qualche modo sì, cioè, ma questo è evidente, si troverà. Un altro punto è dove metteranno Dybala, no, Pierluigi, che pure può sembrare un paradosso assoluto, però ieri l'abbiamo visto per la prima volta in stagione, ma la collocazione, cioè il mix non è chiarissimo. Sì, allora Dybala è un calciatore fortissimo, ma che secondo me per caratteristiche e per tipologia di ruolo è un allenatore che può avere nella sua carriera una serie di punti interrogativi tattici, nel senso che è un calciatore fantastico, attenzione, fantastico, che quando sta bene fa la differenza, ma non è Messi, e quindi e ha un tipo di ruolo, un tipo di utilità tattica e un tipo di talento intermittente e meraviglioso che lo rende, secondo me, infatti non è la prima volta che Dybala in qualche modo viene messo in discussione, cioè non è una cattiveria, o che Dybala non è facilissimo da inquadrare, secondo me. Poi avercelo, la Juve se lo gode, che secondo me fa bene a fargli firmare il contratto e andare avanti con lui, a blindarlo e poi eventualmente fare altre scelte come quelle che aveva pensato di fare 14 mesi fa, quando la Juve cercava Lukaku e c'era l'ipotesi dello scambio Lukaku-Dybala. No. Quindi voglio dire, non è una cosa così assurda, fermo restando il talento assolutamente cristallino del ragazzo. E questo adesso aspetta a Pirlo. Lui ha una squadra che è piena di talento, ma è piena anche, secondo me, di lavori in corso, perché la posizione di Kulusevski, tanto per citarne un altro, Kulusevski ha quattro ruoli possibili, può fare la seconda punta, può fare l'esterno offensivo, può fare il trequartista, può fare pure la prima punta, secondo me, in un'ipotesi emergenziale. Quindi insomma è un bel lavoro che Pirlo ha davanti a sé. Il talento è tanto, è chiaro che Cristiano è condizionante, ma chi non, cioè, ci mancherebbe che non lo fosse uno come Cristiano, no? Cioè, no, è la cosa più normale del mondo. Però una volta che parti da scelte razionali, poi il resto del lavoro guadagni tempo. Io ti ringrazio che mi vuoi dare, ma ieri non è che ha fatto solo scelte razionali, sì, ha fatto anche scelte razionali Pirlo, e probabilmente abbiamo capito che alcune scelte di Crotone nascevano anche dalla necessità di proteggere la squadra. Va bene far giocare i ragazzi giovani, va bene cercare di imbottire di talento la squadra, van bene tutte queste cose, però come base di partenza magari comincia con quelli che conosce, che conoscono la storia. La notizia è Morata, ragazzi, la notizia degli ultimi giorni, in casa Juve è Morata, che era stato preso non come una prima scelta, lo sappiamo, perché insomma comunque erano state seguite altre strade, Suarez prima e Dzeko poi, è arrivato e aveva cominciato male con quel brutto debutto, e adesso però ha fatto due partite toste, solide, piene di gol, piene di cose, quindi sappiamo benissimo così, se trova continuità, guardate così, sappiamo cosa sono i gol per un attaccante, no? Cioè, se no Morata non l'avrebbero preso due volte al Madrid, due volte al Chelsea, cioè, no, due volte alla Juve, due volte all'Atletico. Morata, io per quello a me dispiace, io sono appunto, lo guardo con grande tenerezza, perché è un giocatore che così non è fortissimo di testa, e non parlo di fisicamente ma più psicologicamente, e quindi tende a inabissarsi. Senti, ma però scusami, è anche quello che nel 2015, nell'anno della prima finale di Champions di Allegri, si prende per mano la squadra. Sì. Quindi io sono d'accordissimo con te, cioè ha avuto alti e bassi nella sua carriera, e la sensazione è che non sia fortissimo nel gestire i momenti in cui viene messo in discussione, però è anche uno che invece nelle grandi partite spesso si è esaltato, quindi è anche una sfida ulteriore, anche questa ad Anfield aveva fatto gol, eh? Ultimo adesso siamo in piena Morateide, no? Ultimo WhatsApp che mi è arrivato, scrive: Morata alla Juve sarà il nuovo Lewandowski, vabbè, boom. Voglio chiedere invece a Filippo, sulla Spagna, cioè sulle spagnole, che come vivono la loro condizione, magari non da favoritissime, da underdog. Dopo tanti anni, insomma, le cose sono cambiate, voglio dire, stasera vediamo, adesso più tardi pomeriggio, tra l'altro qua si ritorna allo stadio, cosa per niente scontata, io torno allo stadio dopo quanti sono 8-9 mesi, perché qui in campionato ancora non fanno andare, non è che il pubblico, neanche i giornalisti, per cui insomma stasera in Champions le cose cambiano, bene. Cioè, però, vanno i giornalisti, in generale, no? Chi va allo stadio stasera? Giornalisti? No, Sì, solo giornalisti, però dico, anzi, però ci andiamo, perché qui in Liga su stampa scritta siamo ancora fermi a 6 unità. E quindi ovviamente i corrispondenti esteri non rientrano, perché insomma ci sono già solo con 4 quotidiani sportivi, più o meno è chiuso già. Però a parte questo, dicevo, è una sensazione strana, il Real Madrid è sempre lo stesso da qualche anno, e non riesce a ritrovarsi, insomma, ecco, sono 2 anni che esce agli ottavi, è sempre orfano di Ronaldo, siamo ancora lì, e quindi c'è grande incertezza. Il Barcellona ha preso su una strada interessante. Insomma, ieri il fatto che abbiano segnato comunque due ragazzi del 2002 è un bel segnale. Insomma, prima ho letto un'agenzia, infatti volevo girartela, oggi l'avrei letta, no? La Barcellona impazzisce per Pedro Gonzalez che segna e poi torna a casa in taxi. Sì, allora lì io ho fatto una riflessione. Allora, intanto è arrivato, ci sono due cose. Una che è arrivato allo stadio, sai che ci sono queste telecamere quando loro entrano, e lui aveva in mano una busta di plastica e non c'aveva il solito, diciamo, la trousse griffata, sì, piuttosto che lo zainetto con le borchie. No, c'aveva una busta di plastica. E poi al ritorno se n'è andato in taxi. Però lì la mia riflessione come è stata: di plastica? C'è, sì, c'è una busta di plastica della bianca. Sì. Sì, sì, sì, c'è la foto. È il corte inglese, è il corte inglese. Nemmeno, manco del corte inglese, era tipo una marca bianca, era, cioè proprio una bustaccia di plastica. Cioè, è già un idolo, è già un mio idolo. Esatto. No, però aspetta, però scusa, vi volevo invitare a una riflessione. A me mi ha un po' intristito sta foto nel taxi. Cioè, ma non c'è un compagno che gli dà uno strappo, come si diceva a Roma, che lo porta a casa. Cioè, scusa, cioè, uno dice: Pedri, ma tu che fai? Dice, no, guarda, c'è un meraviglioso racconto di Ciro Ferrara. Adesso dai, sentiamo i prossimi giorni. Tra l'altro c'è il libro, c'è il libro in uscita. Un piacere. Su un suo ritorno quando giocava ancora del Napoli, dopo la trasferta Udinese-Napoli, e lui ha fatto un esordio pazzesco contro la Juve e poi va a giocare a Udine e lo schierano titolare e non la vede mai, praticamente è un pomeriggio da incubo. E vabbè, poi quando c'è Ciro la raccontiamo questa cosa, però sì, nessuno gli ha dato un passaggio, povero. Scusa, nessuno gli ha dato un passaggio, cioè, ma ti sembra ma tu che, cioè, lo sanno che c'ha 17 anni, quindi o vengono di Ginevra, c'è anche delle Canarie. No, dico, appunto, la patente, no, perché Ansu Fati è comunque, c'ha la famiglia che vive lì, anche lui c'ha 17 anni, non c'ha la patente, lo vanno a prendere a scuola, sì. Un fratello, un padre, sto poveretto c'ha tutta la famiglia alle Canarie, appena arrivato c'è uno che dici: scusa, tu dove abiti? A me ha fatto un po' tristezza. Diagonal, Pedrito, uno di noi, nuovo idolo. Dove abitano i giocatori a Barcellona? Qual è la zona? Sì, no, allora ovviamente c'è chi sta a Casteldefels, come Messi, Suarez, c'erano le ville, Ronaldinho, stavano là, poi alcuni abitano lì in zona Pedralbes, vicino allo stadio, che è molto bello, e poi c'è Ter Stegen che abita in centro, che è l'unico, gli piace stare in centro. Piace la movida quando c'era. Pedri non lo so dove abita, però insomma a me ha fatto un po' tristezza, sto ragazzino, cioè... In collegio, sta in collegio. No, ma sta in collegio. Neanche l'ha chiamato con l'app, tipo un Uber, sai, almeno la chiami con l'app. No, proprio andato lì alla fermata. Andiamo noi. In fila, tra l'altro questa cosa evoca dei ricordi, Filippo, clamorosi. Dei ricordi pessimi, perché poi non ci stanno i taxi fuori dal Camp Nou. Avrà dovuto pure aspettare. Di quando si andava allo stadio con 80.000 persone. E trovare i taxi fuori dal Camp Nou era un delirio. Credo, un'impresa. Si è messo la maglietta bagnata nel sacchetto bianco e ha chiamato taxi. Già un idolo totale, lo seguiremo con particolare affetto e attenzione. Grazie, Phil, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Borsa al volo e torniamo. Ve lo dico da juventino, la Dinamo Kiev è più scarsa del Crotone. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Tutti convocati. Dai ragazzi, ma non facciamo le banderuole. Ora la Juve ieri ha giocato una gran partita. La Juve ieri ha giocato contro un avversario che non l'ha mai attaccata, non l'ha mai pressata, anche sotto di un gol. Insomma, il Crotone aveva fatto tutt'altra partita. Sinceramente a me la Juve ieri non mi è piaciuta. No, cioè, l'Inter vince con la Sampdoria, è l'anno dell'Inter. La Juve vince una partita, il gritone della Juve. Morata segna due gol, è la notizia del giorno. A me sembra che ci avete degli entusiasmi facili voi altri. Dybala, prima di essere titolare e entrare al primo minuto, deve prendere la condizione fisica e calare vistosamente, perché 5-6 kg in più, hanno detto. Allora, salvo che sull'ultimo WhatsApp non sono d'accordo su nessuno di quelli precedenti, ma tanto arriva la Cassazione, perché non c'è Champions senza Mr. Champions. Ciao Paolo Condò. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ciao Pier. Allora, ciao. Adesso arriva la Cassazione sul Lodo Pardo, no? Perché Juventus, allora che il Crotone sia più forte da Dinamo Kiev, ho qualche dubbio, ho qualche perplessità. Sul fatto penso, che abbiamo... penso di no, ma in generale, vorrei fare un discorso generale che riguarda la Juve di ieri. Il messaggio, ma non soltanto la Juve di ieri, anche quello che diceva l'Inter batte la Sampdoria, allora è l'anno dell'Inter e così via, troppi entusiasmi, sì, forse a volte si eccede nel voler trarre dei giudizi, soprattutto quando sono positivi, dei giudizi generali sulle singole partite. Però insomma ci sono talmente tanti altri campi della nostra vita quotidiana, soprattutto in questo periodo, che tengono l'entusiasmo più lontano possibile. Con la sordina. Insomma, sì. non ci sarà niente di male, secondo me, se in seguito a una partita di calcio, magari un bel gol, magari una bella situazione, uno dice ma che bello, magari questa squadra quest'anno promette bene, potrà fare delle buone cose, ha fatto un passo avanti, così. Sembra invece che ogni qualvolta uno dà un giudizio positivo su una squadra, su qualsiasi squadra, automaticamente vuole infierire sui tifosi delle altre squadre. Cioè che sembra, se io dico che ieri la Juventus ha giocato bene, allora i tifosi dell'Inter, del Milan, del Napoli dovrebbero rosicare, dovrebbero ma stare infatti... male. Allora, il Milan ha fatto 4 vittorie, 3 contro avversari abbastanza facili, una contro l'avversaria durissima, e cioè il derby, e a punteggio pieno. Allora che cosa può fare il Milan? Io non lo so che cosa può fare il Milan, però per il momento il Milan sta andando molto bene, quindi sta guadagnando spazio nei pronostici. Se prima si diceva che il Milan farà fatica ad arrivare in Champions League, ecco, adesso si può dire il Milan ha delle buone possibilità di arrivare in Champions League, però vediamo dove saranno i limiti nelle prossime gare. No, siete tutti lì, adesso vince lo scudetto. No, voglio dire, cioè, se volete che... Riservate il vostro essere fegatosi, riservatelo su altre cose più importanti. No, stiamo parlando del tempo libero, del vostro tempo libero, e anche del nostro compardon de las damas, ecco, come direbbe Maradona. No, ma se vogliamo dire che la Juventus ieri sera ha fatto schifo, io non mi accodo. Ieri sera la Juventus ha giocato una discreta partita, ha fatto una buona partita di discutibile. C'era forse solo la divisa orange con derive lisergiche, però no, vabbè, questa è un'altra storia. Era veramente, cioè, sai quegli evidenziatori che c'erano una volta? Vabbè, però insomma no, però dal punto di vista della prestazione invece secondo me è bene, ieri un passo avanti. Poi non è che tu sei chiamato, lo ribadisco, della prima partita della stagione a giocarti la finale di Champions contro una mista con Maradona e Pelé in campo, hai gli avversari che man mano ti si presentano e devi adattarti agli avversari che ti si presentano. Ieri la Juve secondo me ha vinto e ha meritato, punto, come la Lazio, che sicuramente aveva un'avversaria di livello superiore, ha fatto un'impresa, ha fatto una grande partita e non è quella che abbiamo visto contro la Samp, quindi giudichiamo le cose che vediamo. Ma chiaro, quando c'è confusione, come si è vista a Crotone e secondo me si è vista anche nella partita contro la Roma, dove comunque alla fine la Juve ha avuto il merito di non disunirsi e dopo l'errore di Dzeko di trovare il pari, ieri secondo me va sottolineato il passo avanti fino alla prossima partita, fino al prossimo giro, confermare o smentire quello che ho detto. No, cioè, non è che smentisce il passo avanti c'è stato, non è smentibile. Ecco, se poi la prossima partita becca con chi gioca, con il Verona, becca 3 gol dal Verona, allora 2 passi indietro. E poi la partita dopo, magari, non è che smentisce il passo indietro, ma sì. Diciamo che semmai bisogna essere bravi a giudicare il senso di una prestazione anche al di là del risultato del numero dei gol. Questo sì, questo io nel passo avanti ieri della Juventus, difatti, la prima cosa che sottolineo e che non ha rischiato assolutamente niente, più dei due gol di Morata, che poi sono stati bravi, hanno vinto, hanno fatto tre punti che erano necessari e così via. Ma la cosa che più mi aveva lasciato abbastanza basito a Crotone era la quantità di palle gol concesse al Crotone, perché stavolta non ne ha avuto nemmeno una. Sì, questo ce l'ha raccontato anche Pierluigi, che ha commentato quella partita, quindi può appunto confermare o smettere i passi avanti, ma li ha già confermati. Volevi aggiungere, Pier? Sì, che tutti voi che ci ascoltate, anzi tutti noi, non è che tutti i giorni siamo uguali. C'è un giorno che abbiamo mal di testa, un giorno che siamo più bravi, un giorno che siamo meno bravi, un periodo che ci rode, un periodo che siamo felici. Quindi già nella nostra vita, se noi facessimo già un ragionamento sulle cose che facciamo noi quotidianamente tutti i giorni quando andiamo in ufficio, in fabbrica, in redazione, eccetera, eccetera, sul posto di lavoro a vendere prodotti, eccetera. Pensate in un mondo come quello del calcio e dello sport in generale, dove tu sei circondato da persone che come te hanno quel livello di specializzazione, quel livello di eccellenza, dove anche quindi il minimo errore può fare la differenza. E questo è anche positivo, anche la prudenza può fare la differenza. Questo è lo sport, e il calcio fra tutti gli sport è anche, come detto, uno dei più liquidi, perché comunque è legato a, è uno sport che si basa su sicuramente su un punteggio basso, quindi dove gli episodi singoli hanno un peso statistico diverso rispetto per esempio alla pallacanestro, e questo è. Detto questo, noi valutiamo quello che vediamo. A Crotone abbiamo visto una squadra onestamente pigra, incasinata, confusa, una squadra confusa, incasinata. E soprattutto i primi 20 minuti della ripresa, secondo me, sono stati imbarazzanti, impressionanti. Sì. Poi in 10 contro 11 con l'ingresso di Cuadrado, paradossalmente la squadra ha trovato una maggiore si è compattata un po' di più, sì. Ma Stroppa ha detto pure che dopo il gol annullato per fuorigioco a Morata, il suo Crotone probabilmente si è anche un po' messo paura, ha avuto paura di vincere, non ha più sfruttato il vantaggio numerico. Insomma, il calcio è così, dai. Allora, fermiamoci un attimo per il traffico. Adesso, dopo il traffico, torniamo a parlarne, anche perché vorrei un commento di Paolo Condò su un giocatore della Lazio che mi fa impazzire, che non è Immobile. Sì, infatti il Crotone è pieno di giocatori che hanno vinto il Mondiale Under 20. Pieno. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Io non capisco perché devono fare esperimenti alla Juve quando quest'anno devono vincere il 10° scudetto, squadra che vince non si cambia, tengono il modulo che vince e basta, gli esperimenti li fanno dal prossimo anno. Vostra opinione 349-238-6666, sarebbe un sacco di cose da dire, compreso la sorprendente vittoria di uno United che mi sembrava abbastanza derelitto sul campo del Paris Saint Germain, con delle maglie che erano anche peggio di quelle della Juventus, ma questa è un'altra storia. Con Tuchel che dice: ma sono rimasto un po' così perché c'era un'atmosfera strana nello spogliatoio, normalmente i ragazzi ascoltano musica a tutto volume, ieri tutti calmi, tutti tranquilli, ho avuto subito brutte sensazioni, magari gli stanno segando la panchina nell'ombra. Però volevo condividere invece con Paolo Condò una riflessione sulla Lazio. Allora, sul Borussia Dortmund, ripeto, squadra che godo nel vedere impallinata, perché è molto talentuosa ma anche molto piena di se stessa, mi è sembrata, e è stata impallinata dalla Lazio, da Immobile, ma soprattutto da Luis Alberto. Che ormai parlo. Che cosa hai contro quelli talentuosi e pieni di se stessi? che si guardano un sacco allo specchio, che si guardano un sacco allo specchio. Il fatto che tu in questo momento sia in collegamento con due figli di loro stessi che non hanno alcun talento. Ma esattamente quello a cui alludevo. No, smettetela, dai, è un centravanti come Haaland, è un giocatore come Sancho, sta lì a masturbarti la palla per ore e ore e ore, la Lazio la prende, va in verticale con un giocatore che ormai, essendo anziano e anche un po' calcisticamente feticista, Luis Alberto, io godo nel vederlo giocare. Beh, io il suo passaggio l'ho scelto nel meglio del 5x5 ieri sera a Sky, ho scelto il suo passaggio d'esterno destro, che innesca il gol di Akpa, no? Il passaggio, il lancio verso Immobile. Credo che verrà esposto al Boma, perché era veramente un'opera d'arte. Ecco, quando qualcuno, io sostengo che il calcio sia un'arte, magari povera, ma un'arte, e uno mi dice, no, ma tu sei scemo, cosa vuoi che abbia a che fare con la pittura, la scultura o la musica? Ecco, gli farei vedere un passaggio. Che non ti sentano i nostri ministri. Che non mi sentono, no, per carità, i nostri ministri. Ma, no, no. I ministeri hanno tagliato la comunicazione, Pierluigi. Sì, sì, allora, l'arte povera fa pensare a Celant, che come sapete, insomma, quest'anno che è stato il maestro e il teorico, e quest'anno, tra l'altro, sempre per questa maledetta malattia, ci ha lasciato qualche mese fa. E sì, sono d'accordo con Paolo. Sarà arte povera perché è arte istintiva, è arte che non ha bisogno di particolari approfondimenti teorici e concettuali, però sicuramente in quel passaggio che ispira il 3-1 c'è un talento istintivo, primitivo, meraviglioso. Sì. Ma Luciano, sono d'accordissimo con te su Luis Alberto. Penso che ieri si debba dire anche che il ritorno di Luis Felipe al centro della difesa, al di là del merito sul gol del 2-0, perché cambia tanto, cambia onestamente tanto. Ed è mancato, secondo me, la Lazio in questa prima stagione. Il ritorno di Immobile, magari anche riposato per il fatto. Ecco, io questo penso della Lazio di quest'anno, poi magari mi sbaglierò completamente, anche perché il campionato è iniziato un po' così, che la Lazio possa avere la tentazione, e potrebbe essere forse anche intelligente da un certo punto di vista, ovviamente le auguro di far bene anche in campionato nelle 38 partite, però la Lazio potrebbe avere anche la tentazione di giocare alla grande le partite importanti. Allora, una stagione. Allora, Pier, abbiamo ripristinato i buoni rapporti col Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, e quindi Paolo, dopo chiudere il discorso, ciao, ecco, rieccoci. Vabbè, cioè, tu dici che è stato il governo direttamente a tagliare. Ah, no, non lo so, non lo so, ognuno la pensa come vuole, no? C'è libertà di opinione. Il governo direttamente. No, ti stavo dicendo che ha due violini al posto dei piedi Luis Alberto, e credo che possa essere considerata, ora che ha anche una certa profondità, perché è qualche anno che ci gioca, la più grande pesca di Tare in assoluto. Perché non se lo accatta il Real Madrid? Vabbè, il Real Madrid non c'è più un quattrino, il Barcellona neanche, perché non se lo accatta il Chelsea, che di quattrino Insomma, in realtà in questi anni credo che Luis Alberto Milinkovic-Savic è abbastanza strano che non siano entrati nel mirino di questi grandi club, perché la realtà è che non ci sono entrati. Per Milinkovic me lo spiego col mondiale un po' deludente, quello era anch'io. Il momento nel quale lui doveva cercare il volo, invece al mondiale non ha combinato niente e probabilmente era atteso al varco da certi grandi club, anche perché, come sappiamo, le pretese di Lotito non sono piccole, quindi per un giocatore, e soprattutto non sono trattabili, esatto, all'epoca credo che venissero chiesti sui 70-80 milioni, e quindi doveva fare qualcosa di più mondiale per dimostrare di meritarli. Meglio per la Lazio, perché senza quei due giocatori, e ovviamente Immobile e anche tanti altri, ieri sera non ti godevi una partita memorabile. Certo, in cui ha messo il sigillo su un probabile passaggio del turno in un girone che non mi sembra complicatissimo. Paolo, grazie, ti abbraccio. Ciao. Il ministro te lo saluto io, non ti preoccupare, lo vedo dopo. Riesci in 30 secondi a dirmi com'è Gladbach e commenti stasera, visto che lo stai studiando? Il Gladbach è una buona squadra. È, diciamo, nella borghesia del calcio tedesco. Ha iniziato la stagione in maniera discreta, però in effetti, se guardavi i numeri, anche l'Inter non ha iniziato ancora la stagione con la qualità che potrebbe avere. Ha una squadra molto esperta dietro, con un portiere veterano come Sommer, con difensore come Ginter, che è sicuramente uno dei più promettenti che c'è in giro per la Germania, non è semplicissima, ma è alla portata. Deve essere brava l'Inter a farla diventare un po' più semplice. Bene, io ti ascolto stasera e naturalmente noi ne parliamo domani. Ciao Pierino. Ciao. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 2. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!